Now let's have a look at the following sentence. Non sei mai contento. The word mai means never. In Italian, when you use the word never, you must also use the negative form of the verb following this pattern. Non più il verbo. Più mai. Non plus the verb plus never. Now for the opposite of mai, sempre. Always. Listen and repeat. Sempre. You're going to hear a sentence meaning that someone always does something. You have to turn it into a negative sentence saying that someone never does something. Ascolti l'esempio. Sono sempre in ritardo. Non sono mai in ritardo. Say the negative sentence in the pause and then repeat the correct answer. Dica la frase negativa nella pausa e dopo ripeta la risposta esatta. Cominciamo. Mangio sempre la pasta. Non mangio mai la pasta. Andrea prende sempre il caffè dopo pranzo. Andrea non prende mai il caffè dopo pranzo. Lorenzo fa sempre colazione la mattina. Lorenzo non fa mai colazione la mattina. Mio marito va sempre al supermercato. Mio marito non va mai al supermercato. Parliamo sempre italiano. Non parliamo mai italiano.